È stata molto bella, sono contento. Lo voglio dedicare assolutamente al Ziz. Secondo me anche lui mi ha dato un po' una mano. Bisogna stare sereni. Quando le cose non vanno benissimo, bisogna mantenere calma e serenità. Un grandissimo entusiasmo che questo Open Italia meritava. È stato un giro incredibile, assolutamente. Specialmente le seconde nove sono state probabilmente le migliori della mia vita. Tutti convocati di Carlo Genta. Franco Piantanini in redazione, Fabio Cantadori in regia. 800 24 00 24, perché siete convocati tutti, alla faccia, in barba a tutti quelli che dicono che abbiamo la testa solo nel pallone, mentendo peraltro. Parliamo, l'avete sentito anche nella sigla, di quelle nove buche, forse le migliori della mia carriera. Matteo Manassero, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Matteo, ti abbiamo messo anche nella sigla oggi, meritavi. Sì, sì. Questo terzo posto agli Open d'Italia, dicono adesso, ho sotto gli occhi la Gazzetta dello Sport, Manassero è tornato. Ma te ne eri mai andato tu? Ma no, non me ne ero mai andato da nessuna parte. Ho fatto qualche cambiamento tecnico che ha portato magari a un periodo con risultati leggermente meno buoni, però insomma non ero sicuramente andato da nessuna parte. Ci voleva un periodo un po' così di cambiamento e adesso ci voleva questo risultato e quelle nove buche per darmi la fiducia che comunque quel lavoro è stato importante. In cosa sei cambiato? Beh, ho cambiato leggermente lo swing, sì. Il movimento tecnico per migliorare quegli aspetti che magari non mi permettevano di competere al massimo in alcuni tipi di campi. E quindi guadagnare un po' di lunghezza e alzare leggermente la traiettoria della palla. Questi sono stati i cambiamenti che ho voluto fare e che sono riusciti, diciamo. Però ovviamente per un periodo mi sono mancate come le basi che ho sempre avuto, e quindi ho fatto un po' più di fatica a fare il risultato. Sì, senti Matteo, a 19 anni ovviamente i margini di crescita restano infiniti, restano illimitati. Certo. Quali sono i prossimi passi? Io leggo fisico e colpi cresceranno insieme, dicono i tuoi allenatori. Quali sono i prossimi passi? Beh, i prossimi passi, comunque questo è il miglioramento, il modo giusto per andare avanti. Diciamo che quest'anno l'obiettivo è finire nei primi 30 dell'ordine di merito europeo, che comunque considerato l'anno che ho avuto sarebbe comunque il miglior risultato, perché sono finito 31esimo nei miei primi 2 anni. Quindi considerato il fatto che non ho fatto un'estate, una parte centrale della stagione buona, sarebbe comunque un'ottima conquista. Questo è il mio obiettivo, diciamo, fine anno. E dopodiché continuare con questi, diciamo, immagazzinare perfettamente questi cambiamenti e quindi rientrare nei primi 50 del mondo. Matteo, tra un paio di settimane la Ryder's Cup con Molinari, che torneo vedremo negli Stati Uniti? Sarà bellissimo. La Ryder's Cup è il torneo per eccellenza, quello che dà più adrenalina ai tifosi e ai giocatori, quindi insomma sarò in prima fila a tifare da casa, quindi insomma spero facciate anche voi la stessa cosa, perché sicuramente è la gara di golf più entusiasmante, eccitante del mondo. Sì. Sì, sarai a casa, sei meno depresso tra i milanisti, se mi permetti di cambiare argomento in questo momento. Sono tra i meno depressi. Sei tra i meno depressi questa sera, da casa o allo stadio? Da casa. Con quali sensazioni? Ma sempre, da tifoso, il tifoso comunque non si arrende mai, e quindi ho comunque buone sensazioni, nel senso che gli sportivi, quando hanno bisogno di dare un passo in più, anche magari motivati da qualche critica, lo fanno, e quindi spero che oggi sia la serata giusta. Cioè, resistenza dura e pura, non resta altro. Sì. Voi milanisti, caro Matteo. Bisogna lottare un po' ogni tanto nello sport va così. Ma secondo te chi la vince questa Champions? Questa Champions penso che la vincerà, dipende da come si svilupperà la stagione del Real Madrid, però penso loro. Pensi loro. La Juventus come la vedi? La vedo come il Milan l'anno scorso. Quindi un ottavo quarto di finale, insomma. Sì. Certo è difficile metabolizzare la partenza di tutti quelli, di la verità. E Ibra, Thiago, eccetera. E far finta di niente. Un po' difficile. È un po' difficile, però io sono tra quelli che non... che sinceramente la... metabolizzata al meglio, perché comunque capisco anche il punto di vista della società, e l'unica cosa che vorrei è vedere il Milan giocare in maniera diversa, quindi cambiare qualcosa dopo le partenze. Se la squadra era fatta intorno a quei due giocatori, adesso sono andati via, quindi bisognerebbe anche cambiare un po' il modo di giocare. Poi c'è il derby con Molinari interista e Molinari Juventino, una bella battaglia, mi sa. Che il Molinari Juventino è quello messo meglio. Ascoltami. È il più galvanizzato al momento. È il più galvanizzato. Matteo, grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie a Matteo Manassero. Abbiamo aperto così, lo sappiamo che comincia la Champions League, cari ascoltatori, comincia questa sera con il Milan che proverà a risorgere con l'Anderlecht, certamente il più morbido degli avversari, la partita più morbida di questo girone, ma fatalmente una partita da vincere, laddove a San Siro finora sono stati raccolti solo gol, fischi e fiaschi. E poi di parecchio interessante c'è il derby tra ex interisti, e di questo vorrei parlare. Oggi ho cercato, avevo bisogno di un interista marcio, l'ho trovato qui dentro, poi tra poco arriva, e cominceremo a parlare anche di Champions League e di questo curioso derby che si prospetta tra due ex allenatori dell'Inter, Roberto Mancini da una parte con il City e José Mourinho in crisi, pesantemente e pericolosamente in crisi, c'è anche lo spogliatoio in subbuglio dall'altra. Inutile chiedere agli interisti, ma io lo farò lo stesso, perché faranno il tifo in questa partita tra Real Madrid e Manchester City. Allora, siete abituati a sentirlo parlare e a leggere quello che scrive, siete abituati a sentire le sue opinioni su argomenti molto più alti e più importanti, però oggi avevo bisogno di un interista malato, marcio, di quelli veri, uno che oggi e domani andrà al cinema, che adesso è solo il giovedì, e l'abbiamo pescato nella caporedazione del Sole 24 Ore, Mauro Meazza, cognome importante anche calcisticamente, non solo giornalisticamente, caporedattore e musicista. Ti è piaciuta? Sì, guarda Carlo, grazie, devo dire che considero un complimento, insomma, la definizione di interista malato, malato dalla nascita praticamente, malato da generazioni, perché già appunto i miei avi erano interisti, e purtroppo sì, devo ammettere, tu con una certa perfidia lo hai ricordato, sarò costretto a seguire altre trasmissioni, diciamo, in questa sera e la prossima sera, ma d'altra parte sic transit, in qualche modo così accade, gloria mundi, è questo proprio che succede. E allora, visto che oggi ti voglio fare un sacco di dispetti, ti faccio sentire da prima questo. E Savicevic gli ruba la palla e poi segna un gol incredibile. Segnava adesso Juve, ce l'aveva incaricato di consegnare a Lippi e ai suoi compagni di squadra la Coppa dei Campioni 95-96. Rincorsa lunghissima, parte da fuori area, Jukovic in contatto, la palla in rete! Diversa, diversa. arriva Solari, Solari che ti va a trovare, vamo Roberto, la va a poner Roberto, la pone Roberto, io sto Zinedine, Zinedine in gattiglia, chiude! Trova Milito, vanno avanti i due attaccanti, i principi dell'Inter, Milito, una finta, in area, ancora, è il principe, Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa, è 2-0, è il principe, Mauro Meazza si è alzato in piedi, al racconto del gol del principe. Al suggello del triplete. Non potevo che alzarmi in piedi. Senti, ma voglio chiederlo a te. Già mi rispondono senza domandarlo via SMS. Sono Roberto Interista. Questa sera tra Osè e Mancini non importa nulla, basta che perda il Milan. Ecco, che cosa fanno gli interisti stasera? Gufano il Milan o si tuffano nei ricordi tra Mourinho e Mancini? E per chi faranno il tifo tra Mourinho e Mancini? Questa è una domanda troppo scontata. Ho paura nell'essere troppo onesto a rispondere, però secondo me io la vedo così. Guardiamo intanto come va la vicenda del calcio estero, San José e il Mancio, così come si regolano. Certo, se poi, come dire, nei confini nazionali ci fossero degli scivoloni importanti anche di squadre a noi vicine, beh, allora potremmo sintonizzarci su questo tipo di canale, se non saremmo andati al cinema o al ristorante con alle nostre signore, così da trascorrere una serata in allegria. Voglio dire, io non me la sento proprio di gufare, però certo il Milan non mi sembra in una fase così favorevole. Tra l'altro tu dicevi, noi guarderemo la televisione, ma ho letto che anche Pippo Inzaghi, che forse vi farebbe ancora comodo, sì, guarderà la televisione questa sera, non se la sente ancora di andare allo stadio, forse potrebbe tornarci neanche passando dalla tribuna, ma scendendo direttamente in campo. Insomma, se Atene, come si diceva, se Sparta piange Atene non ride o qualcosa del genere. Non ci sono discussioni. Senti, ma tu ti ricordi cosa facesti quella sera in cui Juventus e Milan si giocarono la Coppa dei Campioni? Onestamente mi ricordo che non guardai la partita. Non posso dire cosa. Mi ricordo che ci arrivarono, non vorrei adesso sbagliarmi così, ma ci arrivarono dopo questa semifinale, peraltro molto bella, intensa, tra, sì, Inter e Milan, con 0-0, 1-1, no, i risultati, e che premiò il passaggio del Milan perché segnò in trasferta. E, ecco, quella sera ero lì. Vedo che annuiti, ma questo è proprio un covo di milanisti, quindi mi hai trascinato, sì, anche al di là del vetro. Al di là del vetro, cioè, certo. Stanno, è un'imboscata. Come dire, godendo della... Mauro Meazza è un'imboscata. Enrico da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, Carlo. Dica. Sono Enrico da Roma, occasionalmente a Torino. Sì. Volevo chiederle, io sono un tifoso juventino, però sinceramente da qualche giorno un po' preoccupato. Sì. Perché sento troppa, veramente troppa euforia intorno a Juventus per questa partecipazione alla Champions. Voi avete fatto sentire prima delle cose fantastiche, l'ultima finale vinta dalla Juve a Roma. Allora volevo chiederle, secondo lei, della rosa attuale, quanti giocatori potrebbero essere titolari nella Juventus che fece 3 finali consecutive? Domanda difficile, domanda un po' difficile. Comunque la Juventus mi sembra un po' corta, quello sì, l'abbiamo capito domenica contro il Genoa, cioè ancora i backup, ancora la panchina non è all'altezza dei titolari, quindi attraverserà un periodo di super lavoro con i suoi titolari. È una squadra che a mio parere vale il quarto di finale, così com'è, non vale certamente la finale. In Italia due spanne sopra gli altri. Cosa ne pensi, Mauro? Sì, sono d'accordo. Mi spiace perché quando ovviamente un interista parla della Juventus c'è sempre fa un po' fatica. C'è sempre il sospetto, insomma, che non sia obiettivo. Però anche a me da appassionato di calcio, insomma, da tifoso ma anche da appassionato, sembra che la Juventus in Italia al momento non abbia degli antagonisti veri. E invece a livello europeo, per quello che abbiamo visto in questi anni, insomma per le squadre che abbiamo visto nell'edizione passata e ancora prima, le manchi ancora qualcosa, forse anche solo l'esperienza, ecco. Mi trovo abbastanza sul tuo pronostico da quarto di finale, l'Inter di Mancini, ecco, Mourinho, Mancini, no? Partivamo da lì. L'Inter di Mancini poteva assomigliare in qualche modo, no? Potrebbe richiamare lo stato, non parliamo dei giocatori, ma lo stato mentale complessivo della rosa che fu dell'Inter di Mancini, che però fallì l'obiettivo della Champions. Allora, visto che mi hai provocato, io ti faccio sentire questo. Credo che per me questi saranno gli ultimi 2 mesi e mezzo da allenatore dell'Inter, e questo l'ho detto ai ragazzi, lo dico anche pubblicamente, così non c'è nessun tipo di problema, perché sennò poi dopo verrebbe fuori. E spero che questi ultimi 2 mesi e mezzo siano 2 mesi e mezzo importanti, che ci consentano di rivincere lo scudetto e di vincere la Coppa Italia. Grazie. Ma non è la sconfitta assolutamente, anche se avessimo vinto, sarebbe, questo è il mio pensiero. Grazie. Tu vuoi che io rinnovelli? Chi ti ha lasciato dopo l'ennesima eliminazione? Tu vuoi che io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria che ne favelli, diceva il poeta. E infatti questo è stato un momento abbastanza amaro e che ci ha procurato non pochi sfottò anche da parte vostra, voglio dire, di voi milanisti, ecco, in queste situazioni un po' turbolente che spesso caratterizzano la panchina, la guida della nostra società. Ecco, voi in qualche modo sguazzate sempre volentieri. Voi non so a cosa ti riferisci. Allora, io stasera guardo Real Manchester, tifo Mu e forza Anderlecht, Paolo da Prato. Oppure scrive Martin McFly, che tu saprai bene chi è, Ritorno al futuro, tifoso interista, e quando ho nostalgia prendo la DeLorean e vado indietro nel tempo. Riccardo Cuneo. Beh, Riccardo però... Aspetta che lo sentiamo, Riccardo. Martin McFly dopo. Riccardo. Buongiorno, sono Riccardo da Cuneo. Volevo solo ricordare, sempre che non abbiate fatto domenica, perché la trasmissione di domenica non l'ho sentita, che l'Italia ha vinto il campionato europeo di baseball in Olanda, contro l'Olanda. Dopo 37 anni li hanno battuti il giorno del compleanno della loro federazione, quindi ancora più soddisfazione. E che il migliore giocatore di tutto il torneo è stato Lorenzo Vagnina, piemontese, italiano al 100%, di scuola italiana, quindi è giusto anche ricordare gli sport minori, specialmente facciamo, quando ci sono, Riccardo, lo facciamo e lo faremo sempre, prendiamo appunti, perché come lei vede e sente, massima apertura a tutti gli sport, oggi con un grandissimo campione come Matteo Manassero con il golf, ma c'è spazio per tutti, soprattutto per voi, sempre convocati. Annibale, Lodi. Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Niente, io volevo intervenire sempre relativamente all'Inter, perché l'uscita di Moratti di ieri mi ha lasciato un po' perplesso. Io ho visto la partita in televisione, quindi magari mi sono perso qualche finezza che hanno visto loro, insomma. Però io credo che finché c'è Cambiasso in mezzo al campo, che dà gli ordini agli altri e non partecipa al gioco, noi giochiamo in 10 e non in 11. Mauro Meazza, cosa ne pensi di questa affermazione del tuo collega tifoso Annibale da Lodi? L'uscita di Stramaccioni, ma anche un po' sopra le righe. Beh, però io non sono contrario a campo che fa il vigile. Abbiamo avuto un allenatore che andava sopra le righe spesso e volentieri, adesso ce l'hanno a Madrid, però a parte che questo lo rendeva anche un personaggio, quindi per noi giornalisti era una pacchia, ma andare sopra le righe poi serviva a rompere un pochino di questo minuetto sinceramente un po' fastidioso, di quelli l'avversario non lo scopro certo io, eccetera eccetera, complimenti fasulli che rimbalzano da una rete all'altra, da una televisione all'altra, insomma, meglio anche qualche alzata di stile magari, sì, o caduta di stile, sì, ma un po' genuina, un po' schietta. Io devo dire, la partita purtroppo l'ho seguita in televisione, non lo so, perché lì sono anche emerse delle cose un po' particolari, il rientro di Cambiasso sulla linea di difensoria nella prima parte per poter impostare il gioco, insomma, qualche cosa. È chiaro che la squadra è fatta da interpreti che non sono gli stessi interpreti di pochi anni fa, e quindi bisogna, come dire, adattare un pochino il gioco. Sento che molti se la prendono con Cambiasso. Io ho una predilezione per Cambiasso, certo. E devo dire ma che gli anni passano e la fatica è sempre di più, ah, certamente, certamente. Però insomma devo dire, ma certe giocate mi ha irritato più Snyder che non Cambiasso domenica, e non parlo della sua polemica uscita dal campo, sì, con rientro negli spogliatoi. Quello, vabbè, capisco che un giocatore che giustamente si ritiene di prima grandezza si scoccia ad essere sostituito. Capisco un pochino di meno, ma comunque. Senti, hai, devi andare a scrivere di economia o altri 10 minuti? No, posso avere altri 10 minuti, rubo volentierissimo 10 minuti per parlare di Inter, come molto sai. Molto bene, allora io leggo questi due Twitter, uno è di uno che conoscete, cioè Matteo Caccia, che scrive: gufo il Milan e piango per Mancio e Mu. Max su Twitter: stasera operazione nostalgia perché il Milan quest'anno si gufa da solo. Allora, il Barcellona ha chiesto alla compagnia aerea Turkish Airlines, che oltre ad essere suo sponsor offre i propri aerei per le trasferte estere dei giocatori blaugrana, di garantire che solo attendenti di volo donne, quindi hostess, siano presenti durante gli spostamenti di Lionel Messi e compagni. Lo scrive la stampa turca. La richiesta è motivata dallo stress che gli assistenti di volo uomini, gli steward, spesso aficionados del Barça, continuano a causare ai giocatori, chiedendo loro autografi su autografi, magliette, commenti sulle partite, eccetera, eccetera. La compagnia turca ha accolto la richiesta e ha scelto un team di 20 hostess per le trasferte dei vicecampioni di Spagna. A parte che dal punto di vista legale, tu sai che, come dire, io ho un passato all'interno del Sole 24 Ore, proprio nella sezione norme e tributi. Dal punto di vista legale non sono sicuro che questo tipo di richiesta di, con differenza di genere sia corretta. Penso che abbiano anche scelto hostess che non hanno figli, mariti, fidanzati. Questo non è dato sapere, Mauro Meazza. Fai troppe domande, secondo me. Se è vera, è effettivamente una notizia fantastica. Vero? Sì, mi sembra molto molto gradevole. Mauro Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Convocatissimo, 800240024, dica. Pronto? Niente, io voglio restare in tema dell'Inter. Tema dell'Inter. Per avere così un parere, secondo me diciamo il mercato che è stato fatto dell'Inter è stato molto, molto buono, anche se abbiamo preso una batosta due domeniche fa, ma penso che sia una squadra che vada molto lontano. Lei che ne dice? Io lascio parlare un altro interista, Mauro Meazza, poi intervengo. Ma sicuramente, a parte che la cosa importante sarebbe andare più lontani di qualcun altro in quest'annata e questo sarebbe già una nostra soddisfazione. Io ho visto l'ultima partita, avevo visto anche quella precedente che però non ricordo bene. No, rimossa. Quella, non la ricordo molto bene, no. Ricordo bene l'ultima. Sì, stiamo costruendo bene, mi dà ancora l'impressione che sia molto cantiere la squadra. Non è per sfiducia, voglio dire, è ancora fresco il ricordo di uno squadrone collaudato, capace di vincere ovunque, e adesso insomma a così breve distanza di tempo ritrovarsi invece con una squadra in qualche modo in costruzione è un pochino così una novità per noi. Secondo me è una squadra che ha bisogno di trovare degli equilibri che ancora non ha. Certamente a Torino era più equilibrata rispetto a quella partita che non ricordi. Difficile che si possano vedere Snyder, Cassano e Milito tutti e tre insieme contemporaneamente allegramente. Di Cassano cosa mi dici? Spero che in un utilizzo, come dire, razionale, ma sarà un problema di stramaccioni. Razionale, non so se... Cassano e razionale sono due parole che potrebbe essere uno simbolo, vuoi dire, cioè un accostamento di termini poco, poco familiari tra loro. No, spero che in un utilizzo razionale lui riesca a trovare quelle giocate che ha. Non lo vedo, non so perché, non sono mai riuscito a vederlo, ma neanche anche prima, quando giocava in altre squadre, come un giocatore da 90 minuti. Non capisco quale sia il limite, ma mi ha sempre dato quell'impressione. Cioè un giocatore che può fare benissimo mezz'ora, 45, 60 minuti al massimo. Dunque, io adesso, sempre dato che ti voglio male prima di Alessandro da Torino e Gianni da Salerno, voglio farti sentire chi ti ha abbandonato con la coppa in mano, così impari. Anche se ho vado via non c'è mai un saluto definitivo, perché l'Inter sarà sempre casa mia, se vado o se non vado l'Inter sarà sempre casa mia, un giorno tornerò a San Siro per giocare con l'Inter e sicuramente mi sentirò a casa, però vedremo quello che succede, però sto più per cambiare di vita, sto più per cercare una nuova sfida. E puoi raccontare se vuoi, prima mi sono alzato in piedi e adesso sei caduto sotto il tavolo. No, insomma mi sono, come dire, inabissato. Mi sono inabissato, no, e José ci ha riportato, come dire, azzittito anche tutti gli sfottò che duravano da decenni sul nostro poco peso in Europa. E quindi, come dire, secondo me gli interisti, è vero quello che lui diceva in quell'occasione, in qualche modo per gli interisti sarà sempre un idolo, ecco. Sì. È difficile che riesca a fare qualcosa che possa cancellare la devozione davvero che noi abbiamo provato per questo allenatore. In questo momento per i madridisti un po' meno, anche se ieri in conferenza stampa ha detto, dopo aver sparato col fucile, metaforico naturalmente, negli spogliatoi di domenica, dicendo se potevo ne cambiavo 7, adesso ne ho potuti cambiare solo 2, barabà, barabà. Adesso dice che è sicuro che questa sera invece si vedrà una squadra dove tutti sono disposti ad aiutarsi l'uno con l'altro, dove tutti giocheranno concentrati con un unico obiettivo in testa. Bisogna vedere se giocheranno anche per lui. Questo io non lo so, lo scopriremo stasera, stanotte. Alessandro, Torino. Buongiorno. Buongiorno. Io sono juventino, ma volevo parlare di... Volevo, se si può, due opinioni. Sì. Una su stasera Mancini, se può fare lo scherzo a Mourinho, e poi l'altra se Allegri, non c'è troppa prevenzione contro Allegri, perché non mi sembra che tutti vincono lo scudetto primo anno nel Milan, secondo me c'è un po' troppa prevenzione. Anche grazie. Zaccheroni, grazie anche a lei, anche Zaccheroni lo vinse e poi subì una parabola diversa, non so se ci sia prevenzione nei confronti di Allegri, non risulta però che sia... Insomma, in cima alla lista degli allenatori preferiti del proprietario. Però credo che ci sia, non voglio girare il coltello nella piaga, anzi voglio farlo, credo che sia un po' troppo facile individuare nell'allenatore il limite quando però hai sfoltito di parecchio la rosa, soprattutto in qualità. Senza offesa per i sostituti che sicuramente sono molto interessanti, per dire, sì, anche tra i campioni e gli interessanti passa, esatto, di mezzo. Prima dicevamo di El Shaarawy, ti chiedevo appunto se giocherà stasera. È un ragazzo che a me piace molto, cioè lo temo molto, voglio dire, anche in chiave derby. Mi dà fastidio vedermelo tanto contro. Segna Pazzini, vedrai che segna Pazzini. Beh, Pazzini per, sai che va un po' affiammato, noi l'abbiamo visto nella nostra, ha fatto già quel botto di 3 gol, adesso bisogna vedere quando arriva la prossima fiammata. Ecco, mi sembra troppo facile dare la colpa ad Allegri, cioè insomma gli vendono un sacco di giocatori collaudati di grande livello e poi dicono è lui che non li mette in campo. Beh, forse è un po' eccessivo, un po' eccessiva come pretesa. Scrivono: cari interisti, a Torino siete venuti a giocare con 8 giocatori difensivi e solo 2 offensivi, ma dove volete andare? Gianni da Salerno. Buongiorno dottore, buongiorno, buongiorno a tutti i suoi ospiti pure. Volevo dirle questo, io sono un tifoso del Milan. Sì. Così, io volevo fare solo una piccola riflessione su Boateng, se mi consente. Poi lei mi potrà dire il suo parere anche, che è interessante. Io ho visto Boateng infortunato al braccio, operato alla mano per una frattura, non so, una cosa del genere. Io in passato ho dato 4 calci a un pallone e ricordo benissimo che se c'è in atto un'infiammazione, addirittura un'operazione, una mano che può essere usata normalmente come in una partita di calcio, vengono usate tutti gli altri arti che servono, anche nel saltare o nel contrastare. Boateng è un fenomeno, e questo non lo scopro io, non lo dico io, mi sembra che a dire fenomeno fisico, addetto al lavoro, dal punto di vista fisico è certamente un grande atleta. Mi chiedo, ma l'allenatore che dovrebbe valutare il calciatore, non credo che il calciatore abbia bisogno solo dei piedi, un ragazzo così che ha probabilmente avverte dolore, io l'ho visto giocare l'altra domenica in ogni contrasto, avverte dolore nei contrasti, non è sereno nei contrasti, anche se rimane la sua indiscussa in questo momento diventa molto difficile per un Milan così in difficoltà fare a meno di un giocatore importantissimo come Boateng, quindi nei momenti di difficoltà gli si chiede di giocare comunque anche se non è al 100%. Questa mi sembra una cosa normale. Francesca, Roma. Buongiorno. Vi porto la buona novella. È stata eletta la Amazzone Antonella Dallari quale presidente della Federazione Italiana Sport Equestre. Prima donna nella federazione e credo ad essere presidente e prima donna credo come presidente di federazione. Benissimo. Voi sapete che il nostro sport è uno sport che si fa, le gare si fanno maschi e femmine insieme, è l'unico credo. Mm-hmm. E quindi siamo molto molto contente in tutte noi amazzoni, istruttrici eccetera, di avere finalmente una donna e dice certo, fa benissimo, grazie per la buona novella che ci ha portato Francesca. Aggiungo che la Dallari ha dichiarato essere primo presidente donna di una federazione olimpica nella storia del CONI. È per me un grande onore, ma sono consapevole che sarà anche una grande responsabilità. Intanto è mia intenzione ringraziare tutti coloro che hanno consentito la mia elezione. Sarò presidente di tutti, adesso lavoro. Queste le dichiarazioni. Io la ringrazio. Io ringrazio anche Mauro Meazza che mi ha fatto compagnia e che verrà riconvocato nei giorni più neri della sua Inter, perché sennò è troppo facile. Potresti anche convocarmi quando le cose vanno bene, insomma, per citare Ma mi diverto meno. Ti diverti quando le cose mi vanno male. Non sei contento quando le cose mi vanno bene. Che succede oggi nel mondo dell'economia? Come stiamo andando? Ma, come l'Inter siamo un po' in un cantiere anche noi, sì, come Italia stiamo un po' cercando. Beh, certo, non vorrei adesso che paragonare Monti a Stramaccioni mi creasse problemi da una parte e dall'altra, però certo stiamo, come dire, sembra quasi quasi che si possa rifiatare, no? Ci sono stati dei segnali anche positivi, poi tutto improvvisamente si pianta. Devo dire che ci sono queste tensioni internazionali che non vanno sottovalutate, né dal punto di vista umano ovviamente, sto pensando appunto alle manifestazioni di intolleranza, non solo nei paesi arabi, ma anche adesso ci sono queste manifestazioni contro le aziende giapponesi in Cina. È come se ci fosse quasi una rabbia complessiva delle persone, una rabbia che è globale. Tu metti insieme Occupy Wall Street, che è un movimento per carità pacifico, ma comunque esprime un malcontento e incanala un malcontento. Poi le rivolte nei paesi arabi, altra cultura, altri problemi, ma che si scatenano su un dettaglio, se vuoi, su una cosa anche quasi che a noi sembra banale. E poi questa rivolta per una contesa di isolette, una contesa che dura mi pare dal 1500, adesso non vorrei. Credo che questo sia il dato maggiore, perché poi alla fine l'economia vive di fiducia nel futuro. Certo. Beh, invece prevale la rabbia, costruiamo probabilmente poco e male. Però non è sorprendente che sia così, caro Mauro. Ci sentiamo, allora convocato qui al primo capitombolo interessante dell'Inter. Okay? Va bene, accetto la sfida. Molto bene. Ma così ci vedremo magari molto tardi. Buona giornata a tutti. Contare. Grazie Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore. Dunque oggi vi devo svelare una cosa, avevamo convocato anche Corrado Barazzuti per parlare un po' di tennis, perché è un momento splendido per il nostro tennis, però il tempo è rimasto poco, gli ascoltatori tanti, quindi mi spiaceva sacrificare un personaggio così importante in un pugno di minuti. Proveremo a prendere appuntamento per domani. Intanto abbiamo la voce di Seppi che comunque ci ha dato i punti qualificazione contro il Cile, restiamo in Serie A. Nei prossimi giorni parleremo ovviamente anche di tennis. Come ho detto nei giorni precedenti, siamo sicuramente una squadra tosta da battere, soprattutto se giochiamo in casa, e c'è da vedere il sorteggio. Speriamo di avere un po' di fortuna, di incontrare comunque tutte le squadre sono forti, ma magari di poter giocare in casa, e poi sicuramente possiamo fare bene. E ne parleremo nei prossimi giorni con il CT dei maschi e delle ragazze, Corrado Barazzuti. Intanto voglio farvi sentire, in attesa di altre vostre voci, un'altra voce, che è quella di Gianluca Vialli, che chiude definitivamente, o almeno ci prova, una polemica aperta circa 10 giorni fa da questi microfoni con Zeman. Cosa ha detto Vialli? Ma sì, da parte mia sì, nel senso che credo che questa storia abbia un po' anche stancato, e io da parte mia incasso la battuta che ha fatto Zeman sabato, che ho trovato anche molto divertente. Non mi dispiace, lascio l'ultima parola, va bene così, e adesso voltiamo pagina, ci siamo detti quello che pensavamo l'uno dell'altro e adesso insomma è meglio che si parli sul campo. Oltretutto poi, come dicevi tu, insomma l'Italia è anche, insomma, ci sono dei fanatici in giro e quindi è meglio non scherzare troppo con le parole. Perciò da parte mia è finita qui e io vorrei parlare adesso di Zeman quando ci sarà l'opportunità di farlo, soltanto dal punto di vista tecnico. Dunque Vialli chiude la polemica innescata con quella famosa parolina paraculo. Elisabetta, Roma. Buongiorno. Buongiorno. Io stavo guidando e ho avuto un sussulto. Cioè? Intanto volevo dire che sono interista e quindi sempre forza Inter. Sì. Ma al di là di questo sono anche purtroppo una ex hostess e quando ho sentito la notizia del Barcellona che ha fatto richiesta di equipaggio solo al femminile, eccetera, eccetera, eccetera, diciamo che ne ho avuto un tonfo al cuore. Perché? Lo spiego molto velocemente perché so che ci sono molte persone in attesa. Il discorso è questo, mi sembra molto strano che nel 2000 ancora accadano, 2000 superato da parecchio, ancora accadono cose del genere, nel senso che essendo stata anch'io una hostess e lo sarei tuttora se non fossi in cassa integrazione, mi meraviglio che una squadra di calcio che vive di pubblicità, di popolarità, come tutti i personaggi pubblici, è un po' il prezzo che si paga, il fatto di viaggiare e non sono solamente preda dell'attenzione degli assistenti di volo, ma mi creda, sono soprattutto preda dei passeggeri che si trovano su un aereo. Sì, beh, ma sa, ormai si comportano come rockstar, l'aereo è tutto per loro e si permettono anche queste cose, ma come ci diceva giustamente Mauro Meazza, deprimente sì, certamente, ma anche ai limiti della legalità, perché non sono così convinto che sia una richiesta anche legalmente proponibile. Poi verranno accontentati perché, ripeto, sono delle rockstar, però mi fa molto piacere che lei abbia chiamato sottolineando queste cose, davvero grazie Elisabetta. Vado a Giuseppe dalla provincia di Bergamo e poi ho i numeri della Champions. Giuseppe. Sì, buongiorno. Buongiorno. Premetto che sono milanista, quindi non sono obiettivo. Sì. Quindi però... non è obiettivo, giustamente non deve esserlo, è vietato esserlo. È vietato. Però volevo fare solo una piccola considerazione, dal Milan e la Juve, velocemente. Cioè, tecnicamente io non vedo sta Juve a livello di uomini così stratosferica, nel senso, io fuori classi veri, salvo un po' Vucic, un po' Pirlo, non è che vedo questa squadra così della Madonna, nel senso pratico. Però vedo solamente un gioco che ammazza gli avversari. Sì, e io vedo... Rispetto al Milan, cioè, dov'è la differenza? Beh, insomma... Non lo so, io tra dovessi scegliere tra Milan e la Juventus, mi prendo la Juventus, che lei dice non ha la superstar, che secondo me comunque può essere Vucinic, ed è certamente Pirlo, ha una squadra più completa, più compatta, arricchita da due giocatori importantissimi come Isla e Asamoah. Vedremo cosa saprà dare Bentner, vedremo cosa sapranno dare i rincalzi, che mi sembrano il principale problema in questo momento. Vedremo il mercato di gennaio. Tra le due la Juventus è più lunga, più compatta, più completa e più motivata, più fresca rispetto al Milan. Ci sono un sacco di più, caro Giuseppe. Adesso i numeri della Champions al volo. I numeri della Champions. Oggi vi regalo questi due. 35 anni all'età di Viktor Goncharenko, allenatore dei bielorussi del Bate Borisov, e lui il più giovane tra i tecnici della Champions League. Ma vi regalo anche questa. 51 è il numero dei gol di Lionel Messi in Champions League. L'argentino è capocannoniere tra i giocatori in campo quest'anno davanti a Cristiano Ronaldo, a quota 39. Recordman assoluto è sempre Raul, 71 centri. I numeri della Champions. In collaborazione con Unicredit. Grazie a tutti, mi sono divertito molto oggi con voi, davvero. Vi aspetto domani, ci divertiremo ancora di più con i risultati della prima serata di Champions League. Grazie a Franco Piantini di redazione, a Fabio Cantadori in regia. Qui tutti convocati domani alle 2. Ciao.